Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note di Ennio Morricone che ricordano la Sicilia, iniziamo l'incontro di oggi con Marco Vitale. Buongiorno e buon pomeriggio, Marco Vitale. Buongiorno, grazie. Buon pomeriggio e buona domenica anche a quanti ci ascoltano. Marco Vitale, la Sicilia è una delle sue passioni. Poi lo presentiamo un po' meglio, però perché la Sicilia è una delle sue passioni? Perché è una terra carica di storia e carica di enigmi. Però Marco Vitale è un uomo del nord, sì. Bresciano di origine. Valtellinese forse di adozione anche o no? Una volta. Adesso no, non più, perché i metodi mafiosi che stanno diminuendo in Sicilia stanno aumentando in Valtellina. Però diciamo cosmopolita di adozione, internazionale come vocazione. Marco Vitale, economista di impresa, banchiere, imprenditore, consulente di impresa, è uno tra gli economisti più noti, giustamente direi, d'Italia, sempre molto concreto, però molto vicino alla realtà. Com'è iniziata la vocazione di economista, Marco Vitale? Ecco, il termine economista è un termine molto ampio. Io lo specifico, economista di impresa. Però vengo dagli studi di economia. Vengo dagli studi di economia perché fui affascinato all'università da alcuni professori bravissimi, tipo Di Felizio, tipo Pravicini. E poi fui appassionato invece già dal liceo da un personaggio che per me è rimasto poi sempre punto di riferimento, che era Ezio Vanoni. Di formazione un giurista, aveva una profonda comprensione della dinamica economica del paese e che in quegli anni ha svolto un ruolo fondamentale per la rinascita del paese. Ecco, erano proprio gli anni di ricostruzione. Dal 50 al 55 della ricostruzione, questi uomini, Vanoni e Einaudi, ci hanno fatto capire che il nostro paese poteva avere un tragitto di crescita positivo e importante, e questo ha chiamato i giovani di allora a un impegno. Anche perché era un'economia concreta, un'economia appunto della ricostruzione, un'economia delle cose da fare, delle riforme da attuare veramente, non solo da annunciare. Esatto, io ricordo un episodio quando la Costituente, nell'ambito della Costituente, qui andiamo indietro qualche anno ancora, la Commissione economica fece una serie di incontri con studiosi dell'economia, esaminando il problema quanto tempo ci vuole per ricostruire l'Italia. La maggior parte degli economisti disse 15 anni, qualcosa così. Poi venne il giovane, allora presidente della Confindustria, che si chiamava Angelo Costa, medio imprenditore, poco più che quarantenne, e lui disse: no, questi sbagliano tutti, in 5 anni abbiamo ricostruito l'Italia. E aveva ragione Costa. E questo approccio pragmatico mi colpì e mi diede questo filone ispiratore che è l'elemento unificante della mia attività. Perché è vero che io ho fatto tante cose, sono anche magari un po' dispersivo, però c'è una bussola ferma che è l'impresa. Ecco, io l'impresa, ho sempre, qualunque cosa ho fatto, ho sempre lavorato per l'impresa, perché penso che l'impresa sia uno dei soggetti chiave di una buona società. Ecco, in un'ottica, anche pensando alle persone che ha nominato, di una realtà non tanto ideologica, molto concreta, ispirata a quello che possiamo chiamare un cattolicesimo liberale, Vanoni da una parte, Einaudi dall'altra. Sì, senz'altro. Il filone culturale nel quale io mi identifico di più è quello. Ecco, c'è un po' di nostalgia adesso per quegli anni appunto così operosi, concreti, in cui si parlava delle cose da fare. C'è una forte nostalgia, però come un altro grande economista cattolico liberale, Don Sturzo, insegnava, bisogna sempre guardare avanti, e questa è stata un'altra mia caratteristica che ho preso da questi grandi maestri. Don Sturzo, ultra ottantenne, diceva sempre: io ho perso tante battaglie, ma la mia speranza è sempre forte e si è sempre battuto fino all'ultimo per il suo paese, per la sua Sicilia, per tutti noi. E allora io adesso in questo momento guardo con molta speranza, nonostante questa giusta scetticismo, e mi danno forza e mi danno convinzione due elementi. Uno, proprio come la media impresa italiana ha reagito alla crisi mondiale. Secondo me ha reagito molto bene, gli imprenditori italiani in condizioni difficilissime si sono battuti magnificamente, hanno saputo ristrutturare e nello stesso tempo innovare, e quindi questa componente della nostra economia, della nostra società è tutt'altro che spenta o crisi, ha ritrovato nella crisi una nuova voglia di fare. Ecco, una... E l'altro elemento è che, contrariamente a quello che si dice, io vedo tanti giovani in gambissima che si danno da fare, che si battono e che stanno creando qualcosa di nuovo. Che magari però devono andare all'estero. Per qualcosa di nuovo, poi ci sono quelli più bravi che vanno all'estero a imparare, ma poi torneranno. Ecco, due elementi che appunto sono dinamici, sono vivaci, nonostante uno scenario politico, diciamo, che è uno scenario più di ombre che di luci, più di una situazione scenario, molto vischiosa. Scenario molto... politico drammatico, diciamo, sono chiaro e netto. Spaventoso, non è mai stato, credo, così cattivo in 150 anni. Io lo giudico il peggiore nei 150 anni. Ecco, senza scendere poi però... nei particolari, però è proprio questa logica bipartisan di contrapposizione, forse, che non è tanto nella... No, non è solo questo. Non è quello. È che si è, ha preso corpo una concezione proprietaria della funzione politica. Uno è eletto, allora non è che è eletto per servire una parte del paese, è eletto come proprietario di quel paese e in quella parte lì fa quello che vuole, in quanto è eletto, fa delle scelte sensate o insensate, ma le fa in quanto padrone, sono diventate tutte delle caricature di Berlusconi. Quindi siamo entrati in pieno, siamo tornati nel mondo della signoria del 1500. E quindi si può dire che gli imprenditori si muovono con dinamismo nonostante lo scenario esterno. Assolutamente. E quindi stanno cercando di trovare uno spazio in quella che è poi la dimensione globale dell'economia, una dimensione globale che offre appunto queste opportunità. Assolutamente. Io leggo in questa chiave il commento che ha fatto la presidente Marcegaglia: gli imprenditori sono soli. Si può obiettare, è giusto obiettare, che il ministro dell'economia ha fatto recentemente delle misure corrette, utili e positive, dalla moratoria alla riattivazione della cassa depositi e prestiti, al fondo di investimento, sono tutte buone misure di politica industriale. Ma io in quelle parole di Marcegaglia ho proprio letto la solitudine nel collocamento strategico in questo mondo nuovo che sta prendendo corpo e ognuno deve prendere nuove posizioni. Il nostro governo, la nostra classe dirigente non ha una strategia. Quella strategia che ha è penosa. Ecco, ma si sente, al di là del governo, che comunque è fondamentale, diciamo nella società, quella che viene chiamata la società civile, una logica di partecipazione alla realtà dell'impresa? Sì. Ma questo è stato misurato. Il 2 febbraio è uscito un rapporto di un ente internazionale che si chiama Trust Barometer, che misura il grado di fiducia nei singoli paesi verso i singoli protagonisti. Il 2 febbraio questo rapporto è molto concentrato sull'Italia e misura il grado di fiducia degli italiani in vari settori. Quello che ha colpito tanti, ha colpito anche me, è che l'Italia risulta il secondo paese dopo l'Olanda dove una parte importante di cittadini ha fiducia nell'impresa. Il 64% ha fiducia nell'impresa. Prima c'è l'Olanda che ha 74%, poi l'Italia, poi tutti gli altri. Questa ripresa, questo livello sorprendentemente alto è cresciuto negli ultimi 3 anni. Ecco, quindi questo è un dato positivo, si ha fiducia nell'economia reale. Molto positivo, anche vuol dire che il popolo ha capito che in questo paese dove ci sono tanti sfasci, quel settore lì ha tenuto ed è una delle nostre speranze. Incontri. Con queste note di Ennio Morricone dedicate alla Sicilia riprendiamo il nostro incontro di oggi pomeriggio con Marco Vitale, economista di impresa, bresciano, milanese, internazionale. Abbiamo parlato molto di impresa, concludendo appunto con una nota di fiducia sulle imprese italiane e su come anche la società vede le imprese. Quindi possiamo dire c'è una politica che forse non è adeguata a sostenere lo scenario, uno scenario favorevole all'economia, ma c'è un'economia che si muove, che sa affrontare anche le sfide della globalità. Possiamo essere ottimisti non solo per contratto, ma anche un po' per fiducia nella realtà, Marco Vitale, a questo punto. Sì, anche per ragione, osservando la realtà. Ecco, Marco Vitale ha osservando una realtà che non sempre i media aiutano a capire, a disvelare. Beh, i media sarebbe lungo il discorso sull'informazione. No, però sto dicendo, sicuramente dovrebbero dare più buone notizie e più attenzione a quello che realtà, no? Certo. Però come si diceva una volta, un albero che cade fa più rumore di 100 alberi che crescono, e quindi l'informazione è molto attenta forse alle cose che non vanno, anche perché c'è una domanda di cose che non vanno, però ci sono anche tante cose che vanno bene. Io volevo appunto chiedere, approfittare appunto della presenza di Marco Vitale, che ha girato il mondo ma come alpinista più che come uomo d'impresa. Ecco, che giudizio c'è dall'esterno su questa nostra Italia? In questo momento il giudizio è mediamente fortemente negativo, esageratamente negativo, perché certi comportamenti sovrastano la realtà vera. Però abbiamo avuto per esempio il convegno FAI a Napoli, un grande studioso americano, un grande studioso francese, accademico di Francia, che hanno fatto entrambi invece una immagine positiva dell'Italia, dicendo che l'Italia ha dentro tanti depositi di sapere, di conoscenza, di storia, che deve valorizzare meglio in una visione universale al servizio dell'Italia. Cioè il mondo ha bisogno dell'Italia non come Stato, dell'Italia come civilization. Certo, in cui c'è un insieme appunto tra natura, storia, cultura, tradizioni, esatto, opere d'arte e così via. È un paese forse unico appunto, guardando anche alla realtà. Sì. Qual è il paese? Per questo, tra le cose positive, io metto anche questa riscoperta localizzata delle proprie radici, vedo del buon lavoro localmente. Ecco, guardando un po' all'esterno, tra i paesi che lei ha visitato, quale pensa che sia veramente il posto da vedere, da non mancare, il posto della vita in cui magari vorrebbe tornare più volentieri, tra quelli in cui ha camminato, perché Marco Vitale è anche un gran camminatore? È una domanda non Sud America, Patagonia, Tibet. Non facile, perché la distinzione non è tanto politica paese per paese, ma è per zone. Cioè, se parliamo della Cina, parliamo oggi di Shanghai, di Pechino, eccetera. Io devo andarci, ci sono andato 3 volte nel 2010, devo ritornare adesso per lavoro. Non mi entusiasma tanto, è interessante. Beh, andare a Shanghai è come andare a New York per certi aspetti. Ecco. Però ormai la memoria delle mie camminate sulle montagne della Cina, in questi villaggi pieni di umanità, pieni di cosa, è un grande ricordo. Ritornerei volentieri lì. Ecco, la Cina saprà essere un paese capace di diventare moderno senza perdere alcune caratteristiche appunto della sua tradizione. Ecco, io questo era quello che scrissi quando tornai dopo questa gita nelle montagne, e dissi: io mi auguro che la Cina capisca la lezione che noi portiamo, che si può essere moderni senza travolgere la propria umanità, la propria storia. Invece credo che stia facendo gli stessi errori che abbiamo fatto noi. E sulle strade italiane percorse magari in bicicletta, qual è la strada che che ripercorrerebbe o che magari ha intenzione di ripercorrere. Ecco, no, io non ripercorro più in bicicletta, quindi confesso che ho appeso la bicicletta al muro dopo averla usata per decine di migliaia di chilometri. E qui mi ricollego alla domanda: perché la Sicilia? Perché la Sicilia è piena di saggezza, che è testimoniata nei suoi proverbi. Io ho scritto un libro sui proverbi siciliani. Di Caltagirone, mi sembra. Di Calatafimi. Di Calatafimi, I proverbi di Calatafimi attualizzati. Uno di questi proverbi meravigliosi dice: l'età che volessi avere rovina l'età che hai. Ogni età ha le sue cose. C'è l'età per andare in bicicletta e c'è l'età per gioire per i giovani che vanno in bicicletta. Cioè bisogna avere la coscienza a un certo punto di appendere la bicicletta al muro e continuare ad amare però, certo, la bicicletta. E continuare. Io ho la gioia che mio figlio, per esempio, è molto più forte di me in bicicletta, vostro collega, certo, ex del giornalista 24 ore. E così in altre cose. A me piace, io gioisco quando vedo dei giovani emergere nella professione, nell'economia, e la mia funzione adesso è quella di aiutarli ad emergere, non di sovrastarli. Questo evita la gerontocrazia senza buttare via. Infatti, quello che i vecchi hanno e possono dare, però quello che possono dare è questo: aiutare i giovani a crescere, passare la memoria, passare quello che si è messo da parte, certo, in questi anni, e andare avanti. E in fondo creare degli spazi anche aiutando l'economia a crescere con appunto dei buoni consigli, oltre che delle buone testimonianze, dei buoni esempi. L'ideale sarebbe dare dei buoni esempi insieme ai buoni consigli. Esatto. Ecco, ma ecco, un'economia che può crescere. I giovani, lo dicevamo prima, hanno una grande fiducia nel futuro, hanno una grande capacità. Allora, bisognerebbe non tradirli. Allora, io qui sono molto polemico su quello che chiamo management by terror, il terrorismo. Noi sui giovani, non io, ma c'è un grande filone dominante che terrorizza i giovani dicendogli un sacco di balle, dicendogli che c'è la disoccupazione giovanile, che è una verità, ma che ci sarà sempre la disoccupazione giovanile, che non c'è prospettiva, che non c'è futuro, e i giovani scoraggiati, impauriti da questa cosa, che è una bugia gigantesca, perché noi viviamo un momento di trasformazione dell'economia che porta sempre in questi casi un inizio, un aumento della disoccupazione giovanile, perché vecchi mestieri si stanno chiudendo, vecchie attività non danno più e le nuove stanno decollando. Ma le nuove, l'innovazione, che è quella che creerà il nuovo sviluppo, la nuova occupazione, è tutta dei giovani. Certo. Quindi io dico: coraggio giovani. L'ho scritto in un mio articolo nel 79, perché anche allora si raccontava sta balla dei giovani che non hanno più occupazione, non avranno più occupazione. È sempre stato difficile entrare nel mondo del lavoro. Ecco, invece le prospettive per i giovani sono magnifiche, perché l'evoluzione tecnologica, l'evoluzione organizzativa sta tagliando fuori i vecchi. I vecchi non sono tagliati fuori sul fronte del pensiero, del contribuire, di fare questa funzione, ma sul fronte della gestione, certo, dell'operatività, sono sempre più tagliati fuori. I giovani hanno degli spazi meravigliosi. Io sono molto triste di non essere giovane per non e di non poter partecipare a questa stagione molto positiva che c'è di fronte ai giovani. È una storia di grandi cambiamenti in cui si può tornare ad essere protagonisti, i giovani appunto. Gli spazi ci sono. Enorme. Ed è in fondo anche questa una fiducia nella persona, come elemento centrale dell'economia, qualcosa che discende da una dottrina sociale cristiana di cui appunto Marco Vitale è stato anche interprete, ha scritto dei libri. Io ricordo anche per il Sole 24 Ore addirittura forse 20 anni fa un libro sulle encicliche sociali della Chiesa. Sì, fu una serie di articoli bellissimi che ancora ogni tanto rileggo e che fa capire come questo pensiero sia attuale, e la crisi lo ha reso ancora più attuale, perché queste cose, l'uomo al centro invece che il capital gain al centro, è il tema di questi giorni. Indubbiamente. Quindi dobbiamo, per concludere, purtroppo il tempo è volato, dobbiamo guardare con fiducia, non solo perché la fiducia è qualcosa in fondo intrinseca in ogni carattere di ciascuno di noi, ma perché anche le condizioni di un mondo che cresce possono offrire spazi a ciascuno di noi enorme. Di mettere a frutto i propri talenti. Enorme. Io voglio dire, il mondo nuovo che sta crescendo, che sta nascendo, è un mondo migliore di quello che la crisi contrastato. Anche se c'è sempre da pedalare, però. Pedaliamo. Sempre, sempre, ma questa è la bellezza. Grazie mille, grazie. Grazie a Marco Vitale per essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Paolo Corleoni in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it e magari anche dal sito www.marcovitale.it. Grazie e arrivederci.